Scusa mamma se ti offendo, tanto un giorno mi verranno a prendere. E se non parli di soldi, facciamo il gioco dell'uva. Facciamo il gioco dell'uva. Facciamo il gioco dell'uva. In questo gioco per bere vino costoso, ragosta e filetto. Lei mi guarda, ne vuole un filetto. Sto fumando kush e giuro nient'altro. Sto fumando kush e sai che non la basta. Sto fumando kush e giuro nient'altro. Sto fumando kush e sai che non la basta.